24 mattino. L'intervista. Alle 8 e 21 minuti ci ritroviamo, ben ritrovati da Laura Bettini, è il momento dell'intervista, ma vi ricordo anche quello che è il nostro sondaggio di oggi, ovvero vi stressa, vi mette ansia essere sempre reperibili al telefonino, potete votare sul sito internet o telefonarci al 800 24 00 24 a partire dalle 8 e 30. E adesso l'intervista, prima di quella però vogliamo portarvi a riflettere un po' su quella che è la vostra vita quotidiana, quante delle coppie che conoscete sono coppie come quelle di una volta, papà, mamma, figli, una casa, un lavoro, un'automobile, insomma ci sono ancora famiglie così, ma certo non sono tutte, e ci sono anche famiglie del tutto nuove, ci sono i conviventi non sposati con o senza figli, le mamme singole, i divorziati con figli che ricostruiscono un'altra famiglia con ancor più figli, ci sono le coppie assolutamente senza figli per scelta, e poi ci sono quelle che vivono in case o città diverse ma continuano a volersi bene, a stare insieme, insomma a progettare il loro futuro in due luoghi fisici diversi. Insomma, coppie e persone che sono state oggetto di lunghi studi da parte di Alessandra Salerno, docente di teoria e tecnica dell'intervento clinico con le famiglie all'Università di Palermo e autrice del libro Vivere insieme, tendenze e trasformazioni della coppia moderna, edizioni del Mulino. Buongiorno professoressa. Buongiorno a voi. Insomma, di quante, numericamente, quante sono queste nuove coppie che voi avete studiato in Italia, per dare un'idea, insomma, all'ascoltatore? Sì, in realtà gli studi in Italia sono ancora all'inizio, perché come lei ha visto dalle sigle che definiscono queste coppie, che fanno riferimento tutte proprio a definizioni in lingua inglese, queste coppie, pur esistendo in gran numero in Italia, non sono state ancora oggetto di studi anche a livello statistico. E sicuramente ci sono una serie di studi che riguardano ad esempio le famiglie di fatto, le famiglie ricostituite, sì, quelle dove non esiste un matrimonio. Per motivi vari, per scelta o perché provengono i due partner da precedenti matrimoni e quindi non ancora in condizione di farne uno nuovo, ecco. Sicuramente le famiglie ricostituite, per esempio, si aggirano intorno agli 800.000 in Italia, così come le famiglie cosiddette monogenitoriali, dove non esiste un matrimonio e non esiste neanche una relazione affettiva. Quindi c'è un solo genitore che vive con i figli. Sì, le sigle a cui lei faceva riferimento, no? LAT, letta all'italiana. LAT viene dalla sigla, dalla definizione di living apart together, ovvero vivere insieme separatamente. Mm. E fa riferimento proprio a quelle coppie che scelgono di mantenere due abitazioni separate, nelle quali spesso si ritrovano a trascorrere comunque insieme del tempo, ma che scelgono comunque di garantirsi uno spazio privato, individuale. Ma sono scelte queste o sono anche obblighi magari dettati dalle esigenze di lavoro, di vita? Entrambe le cose. Mm. A volte sono scelte, spesso derivate da esperienze precedenti spiacevoli o che hanno dato luogo a conflitti e quindi conseguenti difficoltà a ricostituire una coppia stabile. A volte anche legata alla necessità, lei poco fa faceva riferimento alla coppia a distanza per motivi lavorativi, per motivi legati a, non a scelte personali ma a necessità. Inoltre c'è anche un altro dato interessante che ha a che fare con quelle coppie che si incontrano per esempio via internet, con nuove modalità, che spesso appartengono a territori diversi, città diverse, a volte paesi diversi. E che quindi poi dopo proseguono già la relazione sempre a distanza. Sì, si costituisce già a distanza la coppia. A volte tendono a cercare un compromesso, però spesso per molti anni rimangono coppie a distanza. Quindi ci sono le tecnologie a volte che creano coppie di questo tipo anche. Assolutamente, le facilitano da un lato, ma rendono poi complicata la gestione quotidiana della relazione. Mm. Altra sigla, DINC, letto sempre all'italiana, cioè double income. Double income, no kids, ovvero doppio reddito, niente bambini. Per scelta questo? Questa è una scelta che però spesso è limitata nel tempo, nel senso che si dà priorità ad altro prima di affrontare il progetto genitoriale, soprattutto per la donna oggi è molto differente dal passato, dove il progetto principale era quello della maternità, oggi si dà spazio ad altro, soprattutto un'affermazione in campo professionale, quindi si rimanda nel tempo la scelta della procreazione. Il problema è che poi questa scelta diventa un obbligo se il tempo diventa eccessivo, se quindi si aspetta troppo. Poi subentrano altre difficoltà che sono legate alla difficoltà procreativa per una coppia che è già diciamo, poi là con l'età piano. Magari certo, e poi magari si diventa child free invece, cioè esatto, proprio persone che rifiutano. La differenza è proprio con le coppie child free, dove invece questa libertà, il termine free è proprio contrapposto a quella che invece è definita coppia childless, dove il less indica l'assenza non voluta. Invece le coppie child free fanno una vera e propria scelta di non diventare genitori. Questo si protrae nel tempo, non diventano mai poi coppie genitoriali, perché nasce proprio da un bisogno di investire su altro e da una non necessità di realizzarsi dal punto di vista genitoriale. Coppia che viene molto criticata, soprattutto la donna facente parte di questa coppia, e soprattutto in alcuni contesti come quello italiano, è una donna che va contro natura. Non accettata, certo, non riconosciuta. La maggior parte dei problemi a livello psicologico di queste coppie non riguarda tanto la loro vita comune, le loro scelte, quanto il doverle difendere. Certo, spiegare ad altri perché non vogliono. Perché non vogliono, soprattutto per la donna è a volte paradossalmente più facile dire non posso avere figli piuttosto che non voglio. Certo, certo. Senta, per concludere, tutto questo, queste coppie, ma anche altre in realtà, anche quelle che figli ce le hanno, comunque nel mondo attuale mi paiono un po' più fragili di un tempo. Prima proprio perché c'erano dei riferimenti precisi, cioè ci fidanzamento, ci si sposa, si fanno figli e così via. E che ti piaccia o no, alla fine si sta insieme per tutta la vita. Adesso, specialmente se si vive distanti, se si hanno due case, se si decide di investire sul lavoro e così via, la coppia è fondata solo sul sentimento, ma è un po' più fragile alla fine. Allora, in realtà questi gli studi sono un po' in contrapposizione ai risultati, nel senso che si parla tanto di amore liquido, come dice Bauman, proprio la fragilità dei legami affettivi che caratterizza la società oggi. D'altro canto ci sono una serie di ricerche anche molto recenti che dicono no, in realtà questa minore vicinanza non equivale a una minore vicinanza affettiva, non equivale a un impegno più fragile, bensì ha una maggiore autonomia senza necessariamente distanza. Di fatto sembra che le coppie a distanza sono certamente coppie che hanno meno, come diceva lei, meno punti di riferimento, meno ancore che in passato invece erano presenti, mentre gli studi sulle coppie child free parlano, almeno fino a questo momento, di una maggiore stabilità della coppia senza figli. Quindi si diminuiscono i motivi di conflitto, probabilmente. Sì, esattamente questo è il punto, cioè che viene a mancare tutta una sfera dove la coppia spesso si trova in difficoltà, in conflitto o comunque a dover gestire a volte differenti modalità di gestione dei figli, educazione dei figli, e mancando tutta questa sfera la coppia ha in alcuni casi una maggiore resistenza. Forza, una maggiore resistenza. Professoressa Alessandra Salerno dell'Università di Palermo, la ringrazio per essere stata con noi. Ora grazie, c'è il meteo e poi ci ritroviamo. 24 mattino. Sono le 8:32 ed è il momento di Bianco Nero. Vi stressa essere sempre reperibili? Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Licenziato perché non reperibile per due giorni al cellulare aziendale, è successo a un collaboratore del Teatro San Carlo di Napoli che nei giorni delle feste natalizie non avrebbe risposto appunto al telefonino. Un caso che apre interessanti riflessioni sulla reperibilità costante che abbiamo noi oggigiorno. Voi come la pensate? Vi chiediamo. Siete di quelli che non hanno difficoltà a gestire telefono, mail e compagnia bella, oppure siete di quelli che sono stressati, che sono in ansia per essere sempre così reperibili e che quindi almeno in vacanza vorrebbero poter staccare tutto? Per telefonarci 800 24 00 24, gli sms come sempre 349 238 6666 e poi votate il nostro sondaggio sul sito internet di Radio 24. Andrea Rangone, il nostro primo ospite, professore responsabile degli osservatori sull'ICT e e-business del Politecnico di Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Lei lo licenzierebbe uno che non si fa trovare durante le ferie? No, io penso che in realtà... Poi andiamo avanti con la discussione, però intanto diamo qualche paletto. Sì, Io penso che in realtà in quel caso lì specifico, ecco, sia stata probabilmente solo un'ultima goccia che ha fatto traboccare un vaso. Ecco, non è sufficiente la questione. Mi sembra molto difficile. Anche se poi, appunto, leggendo adesso, senza entrare troppo nel caso, ecco, ma leggendo almeno su quello appunto che è stato scritto sui giornali, è peccato che in quel momento in cui non era reperibile fosse in ballo una decisione così importante e strategica per l'organizzazione in cui lui lavorava, come il cambiamento appunto di un concerto. No? Sì, quindi poi lì qui... tutta una vicenda da chiarire, quindi nominiamola solo come riferimento, perché collaboratore, certo, dipendente, non è chiaro cosa sia. Domenico De Masi, sociologo del lavoro, buongiorno anche a lei. Buongiorno, buongiorno. Secondo lei è lecito staccare quando si è in vacanza? Ma guardi, qui siamo in presenza di una follia complessiva. Cioè, in tutte le aziende ormai, occorra o non occorra, i dipendenti sono felicissimi quando possono essere catalogati tra quelli che vanno reperiti in qualunque momento. Cioè, c'è una mania di essere indispensabili. Poi indispensabili solo al momento in cui appunto si occorre per il capo. Io trovo che l'uso del telefonino fatto in questo modo veramente è una violazione totale di privacy. Si tratti di persone veramente indispensabili, ma in un'azienda ce ne saranno proprio sulle dita di una mano, è una cosa. Ma ormai questa reperibilità si sta diffondendo. E ripeto, le vittime e i carnefici sono pienamente d'accordo. E infatti, a proposito, adesso la fermo, poi dopo andiamo avanti. La fermo perché vittime e carnefici, come diceva lei, sono ormai tutti sulla stessa via. E dovrebbe saperlo bene anche il nostro Enrico Pagliarini. Buongiorno anche a te. Buongiorno, ciao Laura. Giornalista e conduttore del programma 2024 qui su questa radio. Appuntamento a domani, giusto Enrico? Per sabato pomeriggio. Sabato pomeriggio, poi ti allungherai, ma ne parliamo nel corso di questa puntata di Bianco e Nero. Dunque, Enrico, tu lo sai bene perché c'è grande richiesta di questi nuovi dispositivi che ti permettono di essere sempre in connessione con il mondo. Sì, potrei dire che, visto che oggi partiamo dai telefonini, i telefonini sono una specie in via di estinzione, potremmo cambiare nome e chiamarli smartphone, cioè aggeggi che, sì, tra furbi, le altre cose, no? Sono smart, quindi sono furbi. Ma che sono, esatto, che sono sempre connessi. E d'accordo o no sul fatto che uno debba essere reperibile, e tra parentesi, a chi non è reperibile per 2 giorni io darei una seconda possibilità e poi insomma... Magari non parliamo di licenziamento, visto che non è una parola che non va molto di moda. Comunque, dicevo, d'accordo o no, dobbiamo comunque abituarci ad apparecchi sempre più connessi e sempre più spesso connessi alla rete. Quindi questo, d'accordo o non d'accordo, comunque questo il mercato va in quella direzione. Quindi ma la gente è abituarci. Consenziente, no? È a piacere di avere questi dispositivi. Se no non ci sarebbe tutta questa richiesta. Penso all'iPhone che è andato esaurito in poco tempo, insomma. Questo è vero, infatti il mercato va in quella direzione, ma anche i consumatori vanno in quella direzione. Giusto per avere un'idea, nel 2010 il numero di smartphone venduti in tutta Europa è di circa 80 milioni, un anno prima era circa la metà, quindi già questo ci dice un po' cosa sta succedendo sul mercato. Poi potremmo parlare di altro, se abbiamo tempo, oltre ai telefonini, perché in questi giorni, cioè ieri, è iniziato a Las Vegas il Consumer Electronics Show, che è la fiera più importante dell'elettronica di consumo. A quella fiera già l'anno scorso avevamo visto cose del genere, ma sempre più spesso si parla di TV connesse alla rete internet, quindi potremmo essere reperibili addirittura mentre ci guardiamo un film. Non solo il telefonino ci squilla sul divano, ma ci sono oggi telefoni, ad esempio, che si collegano a Skype, che per chi non sa che cos'è, è un sistema che ci permette di telefonare via internet e di essere raggiunti via internet, anche da telefoni normali, e quindi pensiamo che ad esempio ci sono delle TV che squillano, e quindi qualcuno cercare addirittura mentre guardiamo un film. Mentre guardiamo un film, e non possiamo neanche permetterci di ignorarlo, perché lo sentiamo bene. Andrea Rangone, lei nella sua posizione di docente, ma responsabile di osservatori specifici, credo sia tra quelli che sono sempre connessi. Come gestisce la sua vita privata e quella lavorativa? Sì, io diciamo porto la mia esperienza personale, ma porto anche in realtà i risultati di una ricerca che abbiamo condotto pochi mesi fa proprio su questo tipo di argomento, coinvolgendo un migliaio di manager, di professionisti, no? Ecco, come dire, le vittime, ecco, abbiamo coinvolto le vittime. In particolare abbiamo cercato di capire il loro approccio con la tecnologia, con gli smartphone, come diceva Enrico, quindi con gli smartphone e anche con i PC portatili. Beh, voglio dire, l'opinione che viene fuori è abbastanza differente, perché appunto queste vittime in realtà riescono ad apprezzare anche molto i benefici di questa continua connessione. Faccio degli esempi, tre paroline chiave sono venute fuori dalla ricerca come benefici: tempestività, cioè la possibilità comunque di rispondere e risolvere i problemi quando nascono, quindi, e spesso significa questo anche risparmiare tempo successivamente, no? Quindi prendere decisioni rapide, ecco, nel momento dell'inconveniente, e questo, ripeto, fa poi risparmiare tempo successivamente a questa tempestività. Però sottrae tempo ad altre attività, no? Oppure La cosa vera è che emerge proprio l'opposto, che la possibilità rapida di rispondere ad un problema, di gestire un problema quando sopraggiunge, ti libera poi, ecco, magari sì, ti toglie quel quarto d'ora di tempo, magari la scocciata della telefonata, ma poi magari ti riduce due ore, tre ore, se non due giornate per risolvere un problema, se lo lascio sedimentare e le lascio pienamente accadere le conseguenze negative, no? Ecco, quindi questa è la dimensione positiva della tempestività e non negativa. Poi c'è il tema dell'ubiquità. Questi strumenti consentono virtualmente di essere presenti in più luoghi. Cosa voglio dire? Appunto, io posso partecipare a una teleconferenza, partecipare ad una riunione, ecco, prendere delle decisioni dovunque sono. Dove dovunque sono può significare a casa, può significare mentre sono con mezzo di trasporto, in treno, addirittura in montagna, al mare. Ecco, e tornando alla meta personale, spesso e volentieri mi piace gestire e prendere decisioni quando sono in montagna e al mare. Ecco. Terzo elemento, la produttività emerge molto bene, no? Cioè, è evidente che questi strumenti consentono anche di sfruttare bene gli sfridi di tempo, quel tempo che tipicamente è sprecato, sono in attesa dal dottore per un mezzo pubblico, ecco, la posso rispondere all'email, posso rispondere alle telefonate e quindi spesso interagendo con collaboratori e facendo fare le cose. Io ho l'impressione che De Masi non sia molto d'accordo su questi punti, sulla tempestività magari di intervento, fuori discussione, però sul fatto che la produttività ne benefici, lei che ne dice? Dunque, partiamo dal fatto che io sono un patito di tecnologie. Ho il contratto numero 160 in Italia di video online per internet, quindi sono stato il 160esimo italiano a lavorarmi a internet. Quindi le piace, ecco, non è che non è pregiudizialmente contro, insomma, vuol dirci. Assolutamente no, e sono stracarico di nuove tecnologie. Ma io credo che le tecnologie vadano agite, come si direbbe a Milano, vadano controllate, altrimenti veramente si arriva ad esserne schiavi anziché ad esserne padroni. Allora, prima cosa, il mercato. Ma che significa il fatto che il mercato acquisti sempre più telefonini? Che c'entra questo col fatto di essere raggiunti al telefonino non solo quando si sta guardando un film, come si è detto con molta ancillarità da verginelle, ma anche mentre si sta sotto la doccia o mentre si sta facendo l'amore. Che c'entra tutto questo? Seconda cosa, il mercato va gestito. Se c'è una tendenza, questa tendenza va affiancata fin quando è a favore dell'essere umano. L'essere umano ha bisogno di privacy, tranne nei casi in cui è urgentissimo che non ci sia questa privacy. Mio padre era medico e ovviamente doveva essere reperibile. Ma qui si sta esagerando in modo straordinario. Ho fatto il corso a 600 manager di una grande azienda e tutti e 600 questi manager non si riusciva a fare questo corso perché tenevano continuamente accesi che i telefoni. Che la reperibilità che non significava assolutamente nulla. Che in quel momento abbiamo lì poi dopo perdevano il corso. Abbiamo esaminato i casi di reperibilità presenti in aula, su 100 casi ad esempio di reperibilità, sì e no 4 o 5 erano davvero necessari, non so se è chiaro. Certo, lascio poi il fatto che San Carlo, cioè di una delle organizzazioni più sgangherate d'Italia, che si ricorda di licenziare un dipendente in questo caso, ma tralasciamo assolutamente questo. Quando la ricerca che ho ascoltato, ma possibile che c'erano tutti aspetti favorevoli, non ne usciva fuori uno negativo. Si parla di produttività, ma la produttività, parliamoci chiaro, è una cosa che interessa per il 90% il datore di lavoro e per il 10% il lavoratore durante il periodo di pausa, durante il periodo di riposo. Bisogna vedere quali sono gli elementi a favore del lavoratore. I tre elementi portati a favore della reperibilità sono tutti e tre che interessano il datore di lavoro. De Masi, sentiamo questo ascoltatore Antonio da Andria, che ha chiamato l'800 24 00 24. I problemi non gliel' ha dati il lavoro, ma la vita privata sul telefonino? Sì, infatti. Sì, che è successo? È semplicemente perché molte volte ci si trova in circostanze in cui magari anche il telefonino non prende per problemi di linea e si creano problemi con il tuo partner, con gli amici, anche con i genitori, che magari si spaventano semplicemente perché non vedono il telefono squillare. E quindi, cioè, la riflessione che facevo mentre ascoltavo la proposta del vostro sondaggio è che oggigiorno spesso l'esistenza, cioè proprio filosoficamente parlando, è collegata o meno se il telefonino è acceso oppure no. Quindi è uscito anche un bellissimo testo filosofico un po' di tempo fa di Ferraris, che si chiama Dove sei? Ontologia del telefonino, non so se lo conoscete, in cui in questo libro viene sottolineato questo fatto in cui quando il telefonino è spento una persona smette di esistere, cioè quasi perde il suo statuto ontologico. Sì. E quindi secondo me è un po' è problematico. Io sono tra quelli che preferisce ogni tanto perderla questa esistenza e quindi scomparire. No. Io la ringrazio, dobbiamo mandare la viabilità e ci ritroviamo tra poco ancora. Io sono o blanco o nero, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Per dire la vostra 800 24 00 24, ma comunque ricordatevi di votare sul sito internet di Radio 24. Luigi Mario da Torino, buongiorno a lei. Buongiorno. Senta, lei ogni tanto esiste, cioè scompare dal mondo, cioè spegne tutto oppure no? Allora, come professionista ogni tanto debbo scomparire per rilassarmi, però cosa faccio? Il telefono silente e quindi ogni tanto controllo chi ha chiamato. Ma ogni tanto vuol dire ogni 5 minuti, ogni 10, ogni ora? No, con relax, ogni ora, ogni 2 ore, così serenamente. Ma questo è un discorso per il libero professionista. Ma chi è un dipendente di un ente ed è pagato per la reperibilità? Quello che mi ha fatto scattare la telefonata iniziale, sì, è stato sul fatto che appunto il signore del San Carlo, se era reperibile, doveva mantenere attivo il suo telefono. Questo non lo sappiamo, noi abbiamo... Ma solo questo, cioè quando io ho sentito se uno si stressa per la reperibilità, l'ho legato al dipendente, non certamente a funzioni libere, eccetera. È chiaro che poi ognuno, se è libero, deve sentirsi libero, considerarsi libero e quindi inserire l'uso della tecnologia in questo ambito. Luigi Mario, la ringrazio. Diciamo così che per chi ci sta chiamando, vuole intervenire nella discussione, non parliamo solo esclusivamente di reperibilità, perché il datore di lavoro ci ha chiesto di essere reperibili e quindi in quel caso lì, ahimè, ci arrendiamo. Se abbiamo accettato, abbiamo accettato. Ma parliamo un po' di chi non sa fare a meno di tenere il telefonino sempre pronto. Ce ne sono tanti, basta guardarsi in giro, sempre in mano, sempre in tasca, anche quando mangiano sul tavolo, insomma chi non riesce mai a dimenticarsi di questo attrezzo, però alla fine ne è talmente condizionato da essere ansioso rispetto a questa situazione. Enrico Pagliarini, che ne dici di questi ascoltatori, delle considerazioni che abbiamo fatto? Sono particolarmente d'accordo con quello che diceva Luigi Mario e introduco una parola che è disciplina, cioè dovremmo diventare un po' più disciplinati nell'uso delle tecnologie. Noi siamo di fatto forse un po' troppo entusiasti di quello che sta succedendo, sto parlando di persone che hanno magari più di 20 anni, adesso, perché questo problema forse i 15enni non ce l'hanno proprio, non si pongono il problema dell'essere sempre connessi perché sono nati così ed è normale che sia così. Per gli altri mi sembra che ci sia un po' troppo entusiasmo, diceva De Masi all'inizio che alcuni addirittura sono contenti di essere sempre reperibili. Cito il caso, mi piace citarlo, di una persona che conosco, quasi un amico, che lavora per un'azienda americana. L'azienda americana dà per scontato che lui risponda al telefono e risponda alle email anche alla sera del pomeriggio americano. Lui invece si è dato una regola con un po' di disciplina: dalle 18 alle 21 lui dice io torno a casa, sto con i miei figli, li metto a letto, dopo le 21 faccio un'oretta di lavoro dedicato agli americani e risponde alle email, al telefono, eccetera eccetera. Però dalle 18 alle 21 lui è irreperibile e tutti lo sanno e tutti si adeguano. Piero da Brescia, lei è un caso, diciamo, da manuale, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno ai suoi ospiti e agli ascoltatori. Ma direi di sì, innanzitutto faccio questa premessa, io ho 49 anni. Una premessa breve, perché sennò non ci stanno tutti. No, non c'è dubbio. 49 anni, sono 27 anni che lavoro nel campo dell'informatica e nella gestione dell'informazione. Se io non avessi avuto a disposizione gli strumenti fino agli smartphone, per riuscire ad essere sempre presente, non solo dal punto di vista del lavoro, ma anche con la mia famiglia, girando tantissimo per l'Italia e per l'Europa, mi sarei sentito probabilmente in estrema difficoltà. Però e adesso quindi, cosa succede? No, adesso succede nulla di preciso, nel senso che mi trovo benissimo a gestire la mia vita da reperibile, okay. Siccome ne ho fatto anche una sorta di stile di vita. Se io non fossi presente, probabilmente avrei più problemi piuttosto che non averne. De Masi, sentiamo anche insieme un altro ascoltatore e poi dopo lascio a lei la palla. Qui sono tutti ascoltatori che hanno ormai fatto talmente tanto l'abitudine al telefonino che non ne fanno più a meno. Domenico da Teramo, è così, vero? Anche per lei? Sì, buongiorno. Buongiorno. Esatto, perché anch'io il telefonino sempre acceso, sempre reperibile, chiunque chiami, però non ho mai avuto problemi perché si riesce tranquillamente a gestire la vita quotidiana anche essendo reperibile, perché uno può dare anche una risposta per telefono e dire non posso venire oppure non ci sono o quant'altro, insomma. De Masi, allora cosa ne dice? Che consiglio vogliamo dare a queste persone? Uno che risponde al telefono e dice non ci sono mi sembra un poco strano, devo dire la verità. Allora tanto vale non tenerlo. Dunque, io non sono contrario alla reperibilità quando si tratta di casi... Certo, diceva prima il medico, casi specifici. Ma neppure tutti i medici, alcuni medici naturalmente, quindi per i quali è necessaria la reperibilità. Ora, la reperibilità senza telefonino fino a 10 anni fa non esisteva, diciamo così. Come mai all'improvviso ci sono migliaia di persone in un'azienda... tutte con la necessità di essere reperibili. È una frenesia del capo. Io la chiamo la sindrome di Clinton. Quello di avere anche di Marchionne, forse. No, Clinton lo faceva per motivi, diciamo, più personali. Sì. Di avere sempre sotto mano la stagista, diciamo così. è una sindrome che sta pigliando i capi, i quali vogliono travalicare anche le 8 ore di onnipresenza, perché non si usa l'organizzazione per obiettivi ma quella per controllo, e d'altra parte il dipendente che si sente intanto dotato di un telefonino a spesa aziendale e poi perché si sente indispensabile all'azienda quando in linea di massimo non lo è, poi magari l'irreperibile il giorno dopo viene licenziato. Quindi io sto parlando di un uso smodato che si sta diffondendo nelle aziende, che fa parimenti felici vittime carnefici, ma che praticamente estende le ore di lavoro a 24 ore mentre ne sono pagate solo 8. E con una produttività relativa, perché poi alla fine si fa un po' tutto così. Ma guardi, così. Dico questo caso, avevo in aula un allievo che stava, un dirigente d'azienda che aveva sempre il telefonino acceso. Questo intanto riduce, c'è stata una bella ricerca pubblicata il trimestre scorso su Science, in cui diceva che a causa del multitasking, cioè a causa di avere questi telefonini accesi mentre si fa altro, fa prendere decisioni sbagliate nel 60% dei casi. Noi stiamo assistendo a casi enormi come petrolio che invade gli oceani, eccetera, centinaia di decisioni prese in modo sbagliato a causa del multitasking. Persone che non sono capaci di fare una cosa alla volta fatta bene dovrebbero farne 3 o 4. Ho letto da qualche parte che Marchionne ha 6 telefonini sempre accesi. Ora mi dica, so che Marchionne è un Superman, ma anche se fosse un Superman, 6 telefonini si possono avere continuamente sotto controllo. Tutti allora quanti. Bisogna cominciare a rieducarsi al lavoro con le tecnologie. Le tecnologie sono le nostre grandi amiche, ma non possono ridurci a schiavi permanenti, per cui anche mentre si fa l'amore sono al telefonino e ho il coitus interruptus a causa del telefonino. Sono cose folli. Rangone, chiedo invece a lei di commentare insieme l'intervento del prossimo ascoltatore, che è Sandro da Novara. Buongiorno Sandro. Sì, buongiorno. Ma io volevo fare una considerazione, stiamo parlando molto di dispositivi, in realtà oggi esistono delle tecnologie che consentono effettivamente di mettere la persona al centro delle comunicazioni, è la persona che decide quando, come, con quale dispositivo, verso quale persone che stanno chiamando, decidere di chiamare. Quindi tecnologie che veramente mettono la persona al centro delle comunicazioni e lasciano a lei decidere se e come comunicare, non è solo un problema di dispositivi. Che dice Rangone? Questo l'ha pagato lei per telefonare? No, ma ha ragione, anche perché sono, lo condivido al 100%, oltretutto anche perché sono di origine anch'io novarese. Ecco, ecco, no, però io ammetto, non ne sapevo niente e questo ascoltatore è puro, nel senso, chiamato il caso. In realtà manco semplicemente a 39 anni da Novara, ma comunque sono nato lì. Ne approfitto per fare questo commento, no? In realtà quello che io non sono d'accordo, ecco, rispetto anche al professore De Masi, è proprio il fatto che gli unici a beneficiare, ecco, di questa connettività sono i datori di lavoro. Le faccio il caso personale, visto che prima anche me l'ha chiesto, ma grazie proprio ad un utilizzo evidente intelligente, stiamo parlando di utilizzo intelligente, non imbecille, no? Ecco, di questi dispositivi, ecco, io più o meno mi sono fatto i calcoli e circa riesco a risparmiare, ecco, un'ora e mezza, a seconda poi delle giornate, del mio tempo, che essendo padre di famiglia con tre bimbi piccoli, ecco, con molto piacere dedico nel tardo pomeriggio appunto a loro. Quindi non è vero che la reperibilità fa solo gli interessi del datore di lavoro, la reperibilità e soprattutto un utilizzo intelligente di queste tecnologie sono in grado di liberare tanto tempo a chi lo utilizza in maniera sapiente. Se mi consente un altro picco, cosa significa utilizzare anche in maniera sapiente? Proprio seguendo lo stimolo di Sandro da Novara. Ecco, allora, io mi sono posto le mie regole, lo diceva anche Enrico Pagliarini, le mie regole. Quindi per me, ad esempio, il cellulare è costituito da tre canali di comunicazione diverse. Il telefono, quindi la voce, l'SMS e l'email. Bene, a questi tre canali ho associato toni differenti, ecco, sulla base, ecco, delle mie esigenze. Per cui il canale SMS per me è il canale di priorità urgente per me e tutti i miei interlocutori, familiari e professionali. Quindi è l'unico che fa bip. Quindi quando mi mandano SMS io lo sento, ecco, e anche se sono e in aula. E subito risponde. O se sono in aula magari a fare lezioni, non in quel momento ma dopo un'ora al break, guardo e intervengo. Ecco, all'opposto l'email è silente. Ecco, l'email mi arrivano quelle 200 al giorno, silente. Si guarda una volta ogni tanto. Le guardo ogni tanto sapendo che evidentemente non c'è urgenza. Il telefono ho fatto una cosa intermedia. Ecco, vibrazione. Tipicamente non rispondo al momento perché lo ritengo effettivamente una violazione di quello che sto facendo, della mia concentrazione, anche solo del rispetto nei confronti del mio interlocutore con cui sto parlando, ma guardo evidentemente anche qui con serenità chi mi ha chiamato e dopo però rispondo. Lei evidentemente ha allenato anche i suoi familiari, i suoi amici a questa disciplina, diciamo. Ecco, è proprio così, la cosa fondamentale è allenare familiari e collaboratori ad un utilizzo coerente di questi canali. Quindi alleniamoci tutti a un utilizzo coerente di questi canali, ogni tanto esercitiamo anche il diritto di non rispondere subito, di rispondere con più calma e così via. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, ringrazio per questa settimana di collaborazione in assistenza ad Antonella Migliaccio, per la settimana scorsa ringrazio Alessandro Longoni, in regia c'è sempre stato Peter Bescapè, quindi grazie anche a lui. Dalla settimana prossima torna Alessandro Milan, quindi a condurre 24 mattino torneremo nelle solite formazioni, perché le vacanze sono finite, l'Epifania si è portata via le feste e anche l'albero di Natale. Vi ricordo però, per quanto riguarda il nostro sondaggio, potete continuare a votare sul sito internet. A tutti voi un buon proseguimento d'ascolto con Radio 24 e a risentirci da Laura Bettini.